E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. A few minutes ago, I called Bob McDonald a little bit ago. But about 40 minutes ago, I called Mr. Christie. Now I just got off the phone with Bill Owens. Congratulated him and wished him well. E queste sono le parole del dopo esito delle urne, giornata particolare, al tempo stesso un anniversario di un fatto importante, probabilmente epocale, come la elezione esattamente un anno fa di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti d'America. E nella seconda parte del programma discuteremo e ragioneremo ampiamente su questo anniversario, ma è anche il giorno in cui si è conteggiato il risultato di una altra votazione avvenuta ieri, sempre si vota il primo martedì di novembre in America, che ha dato un segno contrario, piuttosto contrario, essenzialmente contrario agli andamenti di solo 12 mesi or sono, dal momento che è ora ufficiale che sia la poltrona di governatore dello Stato della Virginia che la poltrona di governatore dello Stato del New Jersey sono appannaggio dei candidati repubblicani che hanno vinto, nel caso della Virginia con un larghissimo vantaggio che porta addirittura 59 a 41 il dato finale tra McDonnell, nuovo governatore della Virginia, e Deeds, lo sfidante mai veramente in corsa, ma che dà un risultato tutto sommato piuttosto sorprendente nella vittoria piuttosto agevole 49 a 45 che Chris Christie ha conseguito nei confronti del governatore democratico in cerca di riconferma nello stato di New Jersey, John Corzine, punito con solo un 45% delle preferenze dal voto degli abitanti dello stato. Si dice che il terzo incomodo, l'indipendente Daggett, alla fine abbia favorito più Christie che Corzine, ma insomma i dati sono questi, le urne hanno parlato in modo molto chiaro, hanno detto anche altre cose, hanno detto che per esempio nel famoso, ormai famosissimo, poi un giorno capiremo veramente, approfondiremo la reputazione di questo distretto elettorale numero 23 dello Stato di New York, situato all'estremo remoto nord, vicino al confine con il Canada dello Stato di New York. Alla fine ha avuto la meglio il candidato democratico, il candidato repubblicano, anzi il candidato conservatore, scusatemi, Hoffman, è stato battuto dal democratico Owens, a cui è andato l'appoggio finale di Daddy Scozzafava, la vera candidata repubblicana, centrista, di orientamento moderato. Hoffman era espressione della nuova idea repubblicana, quella che fa capo ai Tea Parties, allo scontento nei confronti dello statalismo della nuova Casa Bianca di Obama, che rivendica uno Stato più piccolo, meno occhiuto e un maggiore slancio nei valori fondanti di un'America che sembra momentaneamente un po' in crisi, quella dell'individuo, della libera impresa. Lì però invece evidentemente questo slancio non è stato riconosciuto ed ha vinto il democratico. Bloomberg ha motivato forse i 250 milioni spesi per la sua rielezione, perché ha faticato molto più del previsto a battere il democratico Thompson, 51-46 l'esito finale, e poi confermato per il quinto mandato addirittura il sindaco democratico di Boston Menino. Si dice che Barack Obama abbia seguito, dice il suo portavoce, con distacco, quasi con un certo disinteresse, questo esito elettorale. Sicuramente c'è chi lo prova a interpretare come un referendum. La questione è: Obama coincide con il Partito Democratico o Obama ormai è il presidente degli Stati Uniti d'America, ma al tempo stesso non è un uomo capace di produrre miracoli, e di conseguenza quella che va gestita è la bontà del suo lavoro, delle sue intenzioni alla Casa Bianca, i risultati ottenuti al di là del colore politico. Su questo devono ragionare gli americani, e forse davvero l'esito di queste elezioni è anche la non coincidenza tra lo straordinario fenomeno, che quindi continua a restare, della sua straordinarietà, di Obama, Obama, e un Partito Democratico che invece continua a battersi testa a testa a seconda delle personalità che sa esporre nei vari fronti. Comincia in questi minuti l'elaborazione di questo risultato da parte dei media e degli addetti ai lavori americani. Noi ci proponiamo di tornarci con un nostro invece piccolo laboratorio di analisi domani con un paio di amici e esperti per provare a interpretare e a proiettare il risultato di questo voto, mentre comunque va avanti una amministrazione della Casa Bianca, peraltro carica di problemi, ma su come Obama è arrivato fin qui e sulle prospettive che lo attendono abbiamo un gradito ospite, Maurizio Molinari, corrispondente degli Stati Uniti dalla Stampa, che ci aiuterà ora, no, a provare così a quadrare il cerchio di questa presidenza complessa e al tempo stesso straordinaria. Primo piano. Allora Maurizio, ci siamo, 4 novembre, una vittoria lontana un anno, una presidenza che si è inaugurata 10 mesi fa, poi c'è stato anche quel periodo di transizione così particolare su cui forse varrebbe la pena spendere una parola, ma prima di tutto così un bilancio, un inevitabile bilancio sommario, tanto per cominciare su questo primo anno di Obama da uomo ufficialmente più conosciuto, più popolare, più seguito del pianeta. Il risultato maggiore che Obama ha ottenuto è stato quello di ridefinire l'immagine dell'America all'interno del paese e all'esterno. In entrambi i casi la chiave di questa ridefinizione è l'idea di dialogare con gli avversari e con i nemici. All'interno ha significato creare un'amministrazione con avversari politici come Hillary Clinton, la rivale delle primarie, Robert Gates e i repubblicani, ma anche all'interno dell'amministrazione, nei livelli più bassi, è stato così. Lui ha messo dentro dei suoi avversari. Alla ricetta di Clinton c'è una crisi economica, il terrorismo, siamo aggrediti, bisogna unirci. Questo è stato ridefinire l'America all'interno. Dire io voglio porre fine alle ferite di questo paese, causate negli anni recenti dagli ultimi due presidenti, un democratico Bill Clinton e un repubblicano George W. Bush. E all'estero, questo declinando questo appoggio all'estero, è stato offerte a raffica, aperture a tutti, più uno è lontano, nemico, avversario degli Stati certo. Uniti, e quindi le lettere segrete a Khamenei, le aperture indiscrete ad Hamas, le strette di mano con Gheddafi, questo ha comportato ridefinire l'immagine dell'America nel mondo ed esprimere una nuova idea di leadership basata sulle intese con chi non si va d'accordo. Uso due titoli di giornali di questi giorni per girarti gli interrogativi che appunto questi titoli presentano, che sono interrogativi stimolanti e estremamente attuali. Newsweek fa una domanda provocatoria, dice: Obama ha deluso i liberal. Tu cosa risponderesti? Ma sicuramente sul fronte della guerra al terrorismo gli ha dato alcune delusioni, perché non ha chiuso Guantanamo, aveva promesso certo. Che lo avrebbe fatto. E ha continuato a combattere, la realtà è vera, tanto in Iraq che in Afghanistan, perché lui certo adesso sta pianificando il ritiro, le truppe lasceranno l'Iraq, ma molti liberal si aspettavano che il ritiro fosse immediato. E in Afghanistan sta inviando più truppe, certo forse meno quelle che McChrystal gli ha chiesto, ma comunque il secondo aumento di truppe in 12 mesi. Non solo, ma ha portato la guerra in Pakistan. Nell'ultimo anno di Bush ci sono stati 6 attacchi in Pakistan, lui ne ha fatti 60, certo, ha duplicato. Certo. Quindi combatte con maggiore energia e Guantanamo sta ancora lì. Quindi molti liberal sono delusi. Ecco, ci infilo io però in mezzo una domanda alle domande di questi giornali. Ma non è che si sta alzando continuamente e sempre un po' troppo, no? L'asticella della pretesa dal presidente e da questa amministrazione, no? Confondendo la realtà col miracolistico in un certo senso, no? I casi che hai appena citato, Guantanamo inclusi, non sono soluzioni praticabili, non credo siano state portate in fondo così per una dimenticanza o un approccio troppo leggero, non sono nella maggior parte dei casi praticabili. È molto giusto quello che tu dici, il problema però nasce dalla campagna elettorale, cioè lui ha vinto dicendo cambierò l'America e trasformerò il mondo, insomma è un messaggio piuttosto impegnativo, e il punto è che la gente l'ha votato per questo, perché poi gli americani credono a quello che il leader dice e quindi gli chiedono trasforma l'America e cambia il mondo. Non a caso USA Today ha fatto a sua volta un altro titolo che mi ha attirato, un'altra domanda provocatoria rivolta così all'aria che tira e che io giro a te. Quanta pazienza secondo te ha ancora l'America nei confronti di Obama? molto credo dipenderà dai risultati che lui riesce a ottenere. Cioè, per gli americani è un popolo molto concreto. È chiaro che lo smacco di Chicago, sconfitta sui giochi olimpici, quello ha pesato molto. Ha contato molto, perché il presidente è partito, ha preso l'aereo, è andato lì per prendere uno schiaffo in faccia. E quello è stata una sconfitta. E il Nobel non ha supplito alla sconfitta, perché per gli americani conta più Chicago con le Olimpiadi che non il Nobel dato da una giuria internazionale. Conterà se lui riuscirà ad ottenere dei progressi sull'Afghanistan, conterà se lui riuscirà a fare un accordo sul clima, conterà se lui riuscirà a fare la riforma sanitaria, conterà se lui riuscirà a dimostrare di aver fermato l'Iran nella corsa all'atomica. Gli americani chiedono risultati e in fretta. Torniamo a concentrarci su questo anniversario invece del grande successo di Barack Obama e continuiamo a parlarne con Maurizio Molinari della Stampa. Un Obama 2010 assai meno, direi, assistito, protetto dai media che hanno modificato l'atteggiamento nei confronti, no, quell'entusiasmo così effervescente quasi. Io ricordo anche grandi editorialisti, non so, Joe Klein di Time, che dava quasi sfogo a una specie di entusiasmo, ritrovato entusiasmo per la politica americana. Il 2010 non sarà così. Questo peserà, il modificato ruolo dei media peserà nel percorso di Obama? Credo di sì, e i media hanno cambiato approccio per due motivi. Il primo è l'economia e il secondo è la sanità. Sull'economia noi assistiamo a un abbozzo di ripresa senza ripresa dell'occupazione. Cioè, significa che il ceto medio sta vedendo che gli indici di Wall Street vanno su mentre i posti di lavoro vanno giù. Sembra una ricetta economica repubblicana. I media, anche quelli più liberi che hanno appoggiato il presidente, a cominciare dal New York Times, non possono sposare questa ricetta economica repubblicana. E poi sulla sanità, lui aveva promesso di fare la riforma in 3 settimane, in luglio. Insomma, siamo a novembre e adesso dicono forse alla fine dell'anno. Tutto questo indebolisce la credibilità. E per la logica americana... Ma era credibile che lo facesse. Insomma, sappiamo bene che percorsi ha avuto, no, il dibattito sulla sanità in America. Guarda, tutti noi, ero con i miei colleghi del White House Press Corps, quando lui ha detto 3 settimane... Mi siete guardati in faccia. Aveva detto, cioè, è veramente una scommessa, sì, da far tremare i primi. Ed è interessante come i primi ad attaccare il presidente sono i liberal, perché puntano a vincere le elezioni di novembre del 2010, i democratici. Se il prezzo della vittoria è attaccare il presidente, saranno i democratici ad attaccare il presidente. La rappresentazione che Obama ha dato di se stesso e anche, insomma, che ha provato a inscenare in modo credibile del presidente etico, fustigatore, no, del malcostume che si è diffuso nella economia americana, Wall Street, in parte anche nella Washington così più opaca, meno leggibile, è una rappresentazione che ancora tiene e che ha, diciamo, nel suo percorso, nei suoi mesi presidenziali, attenuto, cioè c'è una logica, una coerenza all'interno di questo sì, quadro. Questo io direi di sì, perché sul doppio binario, cioè la lotta contro i lobbisti e il taglio dei bonus dei super manager, ha mandato due segnali molto forti che nell'America impoverita sono stati recepiti come la dimostrazione di voler mantenere le promesse e gli impegni fatti. Ecco, il 2010, anno elettorale, ci sono dei voti sostanziali anche poi per condizionare l'andamento dell'America a seguire. Sarà un anno elettorale anche per Obama, anche per il presidente? Se lo sarà, cosa significa per un Obama in questo momento dover comunque essere attore, se non protagonista, di una questione elettorale? È un anno difficile elettoralmente, perché Obama è stato eletto presidente grazie alla conquista di stati conservatori. Cioè la Virginia, l'Indiana, il North Carolina, la Florida che aveva votato per i repubblicani, l'Ohio. Il problema è che lui, vincendo questi stati, ha fatto eleggere anche senatori e deputati democratici, ma espressione di distretti conservatori. Ora, per questi deputati, essere rieletti adesso democratici significa avere posizioni conservatrici. E quindi ostili al presidente. Certo. Questa è la difficoltà del Partito Democratico in questa campagna elettorale. Paradossalmente, i democratici, per essere rieletti e conservare il controllo del congresso, devono fare campagna contro il presidente. Proviamo a dire una parola in più su Obama e il partito, che è sempre stata una cosa che qui dall'Italia naturalmente ha meno suscitato curiosità e attenzione. Quanto rispetto, non so, a una Hillary Clinton così sostenuta e così rappresentata e rappresentativa, quanto Obama è considerabile organico alla visione del Partito Democratico, ammesso che ne esista uno poi, no, di Partito Democratico. Obama non è organico al Partito Democratico. Non a caso una delle grandi novità di questo primo anno di presidenza si chiama Organizing for America, un gruppo creato da David Plouffe, l'architetto della vittoria elettorale, riunisce 13 milioni di fan di Obama, indipendentemente dalla loro fede politica, che seguono il presidente, chattano con il presidente, seguono le sue attività e ai quali lui si rivolge direttamente bypassando il Partito Democratico, anzi molto spesso usa questi 13 milioni come gruppo di pressione sui suoi deputati. Il Partito di Obama, insomma. Il Partito di Obama. Ho capito. Una parola necessaria, mi sembra, sulla First Lady, che sta facendo sta facendo perfettamente, organicamente il suo ruolo, ma poi sta facendo un suo percorso come figura pubblica, con una rappresentatività tutta particolare, poi nel XXI secolo accentuata da tante questioni. Che dici? Ci sono tre aspetti di Michelle che funzionano. Funziona la mamma che prepara lo zaino delle figlie quando vanno a scuola, l'immagine della mamma insegnante è proprio la mamma del ceto medio. Funziona la sua scelta di aver abdicato all'identità ortodossa afroamericana, della quale non parla più, la sua tesi di Princeton, l'orgoglio nero, il nazionalismo nero, tutta questa roba non c'è più. Che si è portata dietro, ma è completamente scomparsa. E poi soprattutto funziona il fatto di aver aperto la Casa Bianca a ogni tipo di arte e rappresentazione degli Stati Uniti, che sia l'arte figurativa, l'arte moderna, la moda, la musica. Perché questa è una cosa che colpisce gli americani, piace. Lei ha portato le espressioni creative dell'America tutte dentro la Casa Bianca, indipendentemente se sia una canzone ispanica o l'ultimo motivo jazz. E questo piace tantissimo. Pensare che qui dall'Italia questa la vediamo invece un po' come, no, un florilegio, magari inutile, ma come pensano a queste cose mentre avrebbero ben altri problemi? Invece c'è una funzionalità in tutto ciò. Sì, perché ha ricreato una piccola comunità americana dentro la Casa Bianca. La Casa Bianca non è più un fortino assediato, ma è un po', insomma, lo specchio del paese. L'ultima cosa, hai seguito Obama nel tempo, anche nella sua crescita, come dire, come comunicatore. Lui è un po' nato pronto, nel senso che a Springfield, no, il giorno di febbraio 2007 in cui si presentò, era già un politico straordinariamente dotato. Io ripeto spesso, a me è sempre sembrato molto bravo, nel senso più semplice della parola, convincente, capace, con una grande disponibilità e tocco e comprensione dell'audience e quant'altro. Ma quello che voglio sapere da te è come si sta modificando linguaggio, stile, approccio di un Obama ormai lì dentro le nostre televisioni da diversi anni, quindi di per sé stesso con una necessità di rinnovarsi, no? di non annoiarci. Lui resta sicuramente il volto e la voce più importante dell'amministrazione, anzi una delle caratteristiche di questo governo è che nessuno come lui parla e seduce gli americani, però sta tradendo un po' di nervosismo. Gli attacchi ai blogger, insomma lui è figlio di internet e li sta criticando perché diffondono false informazioni sulla sanità, la guerra aperta con definire la Fox, il maggiore network televisivo nazionale, come nemico, e anche l'errore che ha commesso nella conferenza stampa alla Casa Bianca quando ci fu l'episodio del professore afroamericano arrestato da un poliziotto bianco vicino a Harvard, quando ha irriso pubblicamente in diretta TV la polizia degli Stati Uniti d'America, e lui ha dovuto fare il giorno dopo mea culpa perché c'era la rivolta di tutti i poliziotti. Insomma, resta sicuramente il... Cos'è un eccesso di autorità? Che cos'è? È stato un eccesso di sicurezza. Sicurezza. E l'America non perdona. Va bene, grazie a Maurizio Molinari per averci aiutato, chi meglio di lui, a celebrare questo anno che scade della presidenza della vittoria di Barack Obama nelle presidenziali americane. Vi ricordo ancora il titolo che Maurizio sta mandando in libreria in questi giorni, si intitola Il paese di Obama, il suo saggio, Come è cambiata l'America, il sottotitolo, edito da La Terza. Grazie Maurizio. Grazie a voi. Fin qui il passato, seppure recentissimo, americano, ma l'attualità invece ci impone di guardare al futuro, anche quello prossimo, come da domani comunque l'America, anche sulla base di questi risultati elettorali, potrà correggere il suo tiro, il suo andamento, l'opinione pubblica modificherà i propri atteggiamenti, gli stessi media guarderanno alla Casa Bianca in modo diverso. Ne parleremo ancora domani, naturalmente qui a Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Lucia Guerrera, in regia Roma Valerio Rocchetti. La mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook è redazione Jefferson 3, la replica dopo mezzanotte. State tutti bene. Scooby-Doo, Scooby-Doo.